C'è stata proprio la lettura del giudizio universale, cioè di quella che racconta come al termine della storia ci sarà la netta separazione tra i benedetti e i maledetti. Venite a me benedetti dal Padre mio e via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quel fuoco eterno che da oggi purtroppo dovrà accompagnarci nella nostra meditazione perché stiamo seguendo l'ordine del catechismo nel affrontare i nuovissimi, cioè morte, giudizio, inferno e paradiso. Poi dovremo anche inserirci il purgatorio e il limbo, ma appunto dopo la morte e il giudizio, il primo tema ad essere affrontato è quello dell'inferno. Allora, premetto doverosamente alcune considerazioni. Perché in molti, a parte che molti non ci credono che esiste l'inferno, quei pochi che continuano a restarci generalmente tendono a minimizzarne la drammaticità ed anche l'orrore dell'inferno. Cioè, e veramente lo fanno anche con il purgatorio. Io tempo addietro feci una catechesi che si chiamava Il Purgatorio non è una sala d'aspetto, magari non lo so se è una di quelle che sono state messe in stand-by essendo un po' troppo vecchia, ma certamente quando riparlerò del Purgatorio dovremo ridirlo, insomma, che il Purgatorio non è semplicemente una sala d'aspetto, cioè un posto dove io non vedo Dio, però tutto sommato sto bene. È la sala d'aspetto, se vogliamo, per chi ci crede. E io esorterò a pensarci bene prima di mandarlo nel dimenticatoio, è il limbo. Il limbo è una sala d'aspetto, anzi, tra l'altro, una sala d'aspetto abbastanza divertente, dove ci sono vari intrattenimenti, insomma, no? Carini, ma sia per quanto riguarda il purgatorio, che certo è un luogo transitorio, temporaneo, di purificazione, ma non è una sala d'aspetto. Perché lì si tribola, ci sono i tormenti nel purgatorio che sono temporanei, ma ci sono. Qualcuno lo definì, qui in molti si stracciano le vesti e anche qualcos'altro, un inferno temporaneo, ecco, con la differenza, insomma, che a meno che non si scenda nel purgatorio basso, basso, basso, come avremo modo di vedere, nel purgatorio non c'è la compagnia dei demoni e c'è la certezza di essere salvati. Insomma, già queste due cose in meno lo differenziano non poco dall'ambiente dell'inferno. Figuriamoci se l'inferno può essere descritto come una sala d'aspetto, ma cioè, sì. Si sente dire, adesso non voglio scendere troppo in particolare, preferisco mantenermi sullo generico, così è meglio, ma eh sì, se uno va all'inferno ha fallito l'obiettivo della resistenza, non vedrà mai Dio, vabbè, il discorso è molto semplice, amici miei, no? Cioè, io non lo so, credo che nessuno di noi veda Dio. Allora, posso essere sicuro al 100% che la visione beatifica non ce l'ha avuta nessuno fino adesso, perché la visione beatifica non è possibile averla sulla terra. Se qualcuno di voi ha visto la Madonna, nostro Signore Gesù Cristo, ecco, mi raccomando, è uno scherzo, quindi me lo saluti tanto e gli dica che gli voglio tanto bene, e che mi aiutino a salvarmi l'anima, insomma. No? Però, ecco, già vedere Gesù Cristo e la Madonna che è possibile questo che accada in questa visione, in questa vita terrena, perché non è la visione appunto beatifica della Santissima Trinità, è un enorme diletto. E quando questo accade, per chi conosce le vite dei santi e dei mistici, allora la vita diventa complicata, nel senso che si desidera follemente partire, sciogliere le vele. Però, amici, fuori di questi casi, io vorrei sapere chi di voi, quelli magari che stanno in diretta poi possono intervenire, come dire, semidisperato dalla mattina alla sera perché c'ha da fare un altro giorno sul pianeta Terra e non sta contemplando l'Altissimo. Se qualcuno campa così, ringrazia il Signore perché è una grande grazia, ma è una cosa molto rara. Sto facendo queste premesse per dire, cioè, se l'inferno fosse soltanto la privazione della visione beatifica, sì, è vero che viene dopo il giudizio particolare, dove c'è stata una condizione molto più profonda di quella che abbiamo in questo mondo di Dio, no? Ma insomma, è una pena che ci portiamo in questa terra, perché in questa terra Dio non lo vediamo, ma ripeto, appare sopportabile. A meno che non ci siano state esperienze appunto particolari, no? Il problema è che l'inferno non è tutto qui. L'inferno è la tragedia assoluta, ecco, e avremo modo di vederlo scendendo in tutti i dettagli possibili, immaginabili, anche di quelli che sono i tormenti che caratterizzano l'inferno. E non escludo che, anche se questo, diciamo, esula un po' dal teologico al chiamiamolo devozionale, però che debba fare riferimento tipo a una Santa Faustina o una Santa Teresa, che l'inferno l'hanno visto per volontà dell'Altissimo e sono sante canonizzate, quindi non sono rivelazioni private, apparizioni in corso, che saranno vere o non saranno vere. No, non si discute che queste cose qui, che quelle comunque siano sante canonizzate. Questo perché? Per fare il terrorismo, quindi da qui dobbiamo terrorizzare, io vedo insomma in giro sui social, sulle cose, ah, la Chiesa ha tenuto schiave le persone per secoli con lo spauracchio dell'inferno. Bah, a me personalmente non interessa proprio nulla spauracchiare l'inferno in giro, proprio a me non interessa proprio nulla, non mi viene in tasca assolutamente nulla, se non disprezzi, critiche, commenti che grazie a Dio sono sempre sottoposti a revisione dallo staff di collaborazione, insomma, ma non sono certamente complimenti o cose di questo genere. Accuse di, ah, questo è ancora il Medioevo. Ecco, nei giorni scorsi c'è stata un mio intervento su una stazione locale su Halloween, che ha riscosso, insomma, numeri per me proibitivi, insomma, in così poco tempo, perché il tema è sempre accattivante, no? Però, evidentemente, dentro una maggioranza di commenti positivi ci sono state anche le solite cose, trite, Medioevo, questo, cioè, anche se ho tenuto, mi sembra, insomma, di aver tenuto toni abbastanza soft, e quelle cose che dovevo dire, insomma, le ho dette documentandole con personaggi anche esponenti del mondo totalmente laico, come i criminologi che hanno scritto uno dei testi che ho mostrato, insomma, quindi, cioè che ci siano le sette sataniche è fatto riscontrato dalla magistratura italiana, d'accordo? Quindi, e che il 31 ottobre sia il loro capodanno, beh, è fatto riscontrato dal calendario satanico che loro stessi pubblicano, e che quello sia un sabba è la stessa cosa, insomma, no? Quindi, accuse, cioè, è perché se si affrontano alcuni temi per principio, Medioevo, questo, quell'altro, a destra e a sinistra. Ma sapete a me che me ne importa andare in giro a parlare di Halloween? Scusate, no, non me ne importa nulla, d'accordo? Che cosa me ne viene in tasca a me? Che cosa? Sotto tutti i punti di vista, non dico economico perché economico non me ne importa proprio niente, ma me ne viene forse, come dire, onore umano, stima, considerazione, rispetto. Beh, non voglio fare la vittima, ma basta informarsi, per esempio, come dire, quanti incarichi ho in diocesi, ecco, tanto per dirne uno, no? Quindi tutta questa grande considerazione non è che, attenzione, che a me non me ne importa assolutamente nulla, nessuno pensi che io sono tutto tanto contento, nel senso che quello che a me interessa, il motivo per cui ho risposto alla vocazione sperando di averla avuta, insomma, del Signore, è la vita pastorale, quindi è la cura delle anime, appunto, è la predicazione, l'amministrazione dei sacramenti, quindi a me non me ne importa nulla. Però, capite, cioè, affrontare certe tematiche, certi argomenti, specialmente mettendosi in una certa posizione nell'attuale contesto, potete immaginare quello che comporta. Soprannaturalmente parlando, sono tutte quante medaglie, no? Perché Gesù l'ha detto: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Ecco, speriamo che dipenda da questo, insomma, il fango che arriva. Quindi a me non interessa nulla andare a terrorizzare le persone, a dirgli il pianto, lo stridore dei denti, andiamo a vedere cosa sia e cosa fanno i demoni e che questa è l'eterna dannazione. Ma a me non me ne importa proprio niente. Anzi, io me lo risparmierei molto molto volentieri, ma risparmiarlo è fare un danno enorme alle anime. Perché la minimizzazione dell'inferno o il pensare che l'inferno non sia tutto questo che questi terroristi della Chiesa che dovevano terrorizzare le persone hanno spauracchiato in giro, adesso ce ne siamo liberati. Bah, liberatene pure, d'accordo? Il problema è che chi è tutto contento di essersene liberato, poverino, ignora che è tra i più grandi candidati ad andarci a finire. Il problema è che quando poi uno ci va a finire, capite la tragedia, no? Sorpresa è un attimo, no? Io ogni tanto ci penso e mi addoloro a questi poverini che, pensandosi grandi, pensandosi intelligenti, pensandosi moderni, autonomi e indipendenti, fanno gli splendidi. Ah, ma che me ne importa a me dell'inferno? Come se uno facendo così lo eliminasse, d'accordo? Oppure impedisse al diavolo di prendere la tua anima e di portarcela dentro. Anzi, così la aiuti 100.000 volte tanto, perché i grandi maestri di spirito, oggi probabilmente un po' meno popolari, basta leggere, cioè io, le cose che io dico, guardate amici cari, quando io parlo, io cerco di non inventarmi proprio niente, cioè quello che esce fuori da me è un bagaglio di ciò che io ho acquisito e non faccio nient'altro che svolgere la funzione di metterlo a disposizione di condividerlo, ma io non sono maestro di nessuno, io non ho niente da insegnare a nessuno. Io spero di essere discepolo del Signore, da Lui imparare qualcosa e restituire quello che imparo, e oltre che del Signore, di coloro che sono stati certamente Suoi amici e che quindi sono, in quanto tali, miei superiori e miei maestri, da cui attingo e trasmetto. Basta, io non faccio nient'altro. Non faccio altro che questo. Allora, questi grandi maestri raccomandavano la meditazione, di fare la meditazione sull'inferno. Sono tentato di andare a prendere qui in libreria la Filotea di San Francesco di Sal, che quando fa fare il suo piccolo percorsetto preparatorio alla decisione di intraprendere la vera devozione, cioè di vivere una vita devota, cioè una vita al servizio di Dio. Andate a leggere la meditazione sull'inferno, io l'ho fatta, me lo ricordo, perché quando io lessi la Filotea, che fu, insomma, qui andiamo ai primissimi periodi del seminario, quindi quando uno stava tutto infervorato, che voleva impegnarsi un po' di più, dico, facciamo questa meditazione e poi facciamo quello che dice San Francesco, cominciamo a incamminarci verso la santità, che uno c'ha questi sogni, che i sogni rimangono lo stesso, poi bisogna vedere come andiamo con i risultati, però. E io me la ricordo ancora la meditazione sull'inferno, e chi se la scorda più quella cosa lì? Cioè, il compito del maestro di spirito, scusate se sto facendo questa introduzione un pochino articolata, però la ritengo opportuna, era di farti vivere attraverso la meditazione la reale possibilità della dannazione e farti rappresentare mentalmente all'interno della preghiera la tragedia che questo è. Mettiti all'inferno. Tu in un istante vedrai tutta quella che è stata la tua vita, tutte le possibilità di salvezza che ci hai avuto, le grazie che il Signore ti ha fatto, i richiami di coscienza, i consigli che hai disprezzato, le brave persone che il Signore ti ha messo davanti, i santi forse, i buoni insegnamenti, le raccomandazioni, tutto buttato alle ortiche. E quindi tu in quel momento vedrai che tu stai lì solo per colpa tua. Solo per colpa tua. E da lì non ci uscirai mai più. E lì sarai tormentato e il rimorso di coscienza ti accompagnerà per tutta l'eternità. Cioè la drammaticità dell'inferno è la sua eternità. Quegli sciocchi, chiamiamoli così, raca sarebbe bene dire in ebraico, che ironizzano su chi fa gli spauracchi sull'inferno, ironizzassero pure. Poi vedranno. E io gli auguro che così non sia, ovviamente, che non c'era niente da ironizzare, non c'era niente da fare gli sciocchi. Come vedremo già questa sera, l'inferno è una realtà inequivocabilmente rivelata in maniera reiterata. Tutti ve li leggo, tutti li leggo. I riferimenti biblici del Nuovo Testamento, stasera faremo l'overdose, faremo. In modo tale che se qualcuno ci avesse qualche dubbio, sappia che si pone proprio frontalmente dinanzi alla rivelazione esplicita e diretta della Sacra Scrittura, eh? Anche per quelli che sono filoluterani ancora, che vogliono vedere le cose scritte nella Bibbia, quindi quando sentono parlare dell'Immacolata cominciano a dire che dentro la Bibbia non c'è scritto, d'accordo, queste sono visioni luterane, cioè, allora, alcune cose sono scritte chiaramente nella Bibbia, per esempio che i divorziati e i risposati sono in stato di adulterio, questo l'ha detto esplicitamente Gesù nel Vangelo, quindi io ancora devo andare a capire, perché un giorno o l'altro lo dovrò capire, no? Tutti questi discorsi che si continuano a fare in continuazione tra divorziati e risposati, come si fanno a fare in presenza di nostro Signore che ha detto esplicitamente se uno ripudia la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio e chi sposa una ripudiata commette adulterio. Questo sta scritto nel Vangelo, non è l'interpretazione di San Tommaso sulla base di quel passaggio, quindi che poi vediamo se il Magistero l'ha recepito. No, sta scritto proprio esplicitamente, ma che devi riflettere. Cosa vuoi fare? Come quelli che ragionano sulle donne prete, ma qual è l'argomento più grande che, cioè, dico, dopo, cioè, dico, ai tempi di nostro Signore Gesù Cristo, si è preso 12 apostoli, ma c'era viva la madre, c'era viva la Madonna. Io vorrei che qualcuno mi dicesse se esiste in tutto l'universo, in teoria, creatura più degna, in teoria, di offrire il sacrificio del Calvario e di toccare con le sue mani santissime l'Eucaristia. C'è, forse? C'è? Non credo. È stata fatta sacerdote da nostro Signore? No! No! No! Inequivocabile! Non è stata inviata a evangelizzare le nazioni, a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non l'ha fatto. Ma dico, ma quali argomenti devi andare a trovare ancora per capire che le donne non le puoi ordinare prete? Non è che non le vuoi ordinare prete, non puoi perché nostro Signore non ti ha dato il potere di farlo. Ma ci vuole la scienza infusa, ci vuole, io dico. Mi sembrano talmente ovvie queste cose. O vogliamo andare contro proprio l'evidenza oggettiva, schiacciante, palese? Oh, l'inferno è blindato da un punto di vista biblico, non solo nell'esistenza, ma anche nella descrizione, perché Gesù lo descrive. Il fuoco della Geenna, là sarà pianto e stridore di denti, come vedremo. Non parliamo di San Giuda, il cugino di nostro Signore, insomma, che ha scritto un capitolo solo, ma e tanti altri luoghi che vedremo. Non prendere sul serio l'inferno, non pensarci attentamente, e attenzione anche un'altra cosa, eh. Non considerarlo, vabbè, sì, l'inferno esiste, è tutto quanto questo mostro, ma io non ci andrò mai, è una cosa per altri. Pensiero molto, molto sciocco questo qui. Perché all'inferno purtroppo, e lo dico con dolore, possiamo andarci tutti quanti. Io prima di voi. Ahimè. Farò di tutto per evitarlo, per quanto sta in me, ma dobbiamo pregare il Signore Non diciamo al termine di ogni decina del rosario, ce l'ha insegnato la Madonna a Fatima, o Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Lo diciamo o non lo diciamo? Sono chiacchiere? Non diciamo nell'Ave Maria prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Perché nell'ora della nostra morte? Perché nell'ora della nostra morte? Dottrina universale di tutti quanti i santi cattolici, perché nel momento della morte ti viene mezzo inferno contro, perché il diavolo fa gli ultimi assalti per cercare di strappare quell'anima a Dio. Quindi è chiaro che Dio non ci vuole mandare nessuno all'inferno, e all'inferno non ci si va se ci si sforza di vivere in amicizia con il Signore ordinariamente. Ma quando diciamo non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, nella versione fedele alla traduzione letterale, noi stiamo supplicando di per questo fondamentalmente il Signore, non farci cadere nelle grinfie del diavolo, perché non cadiamo nell'eterna dannazione. Questo è il senso proprio, terra terra delle ultime due petizioni del Padre nostro. Quindi aiutaci a combattere, aiutaci a vincere, e tienilo lontano se possibile. E se invece stabilisci che è necessario, perché il Signore stabilisce che è necessario che siamo tentati, perché la tentazione fa uscire fuori quello che noi abbiamo e da che parte vogliamo stare, e il nostro Signore vuole che la nostra libertà la esercitiamo, eccetera. Quindi l'inferno deve essere oggetto dei nostri pensieri, deve essere oggetto anche del nostro disprezzo, d'accordo? Soprattutto i diavoli e chi ci va. Non vi stupite se, questo lo afferma San Tommaso, che sulla terra l'odio noi dobbiamo bandire questa passione, perché l'odio possiamo esercitarlo soltanto contro il peccato, non contro persone reali e fisiche, mai. Ma i beati odiano i dannati. Non ci si stupisca di questo. Perché il dannato è degno di odio, perché il dannato si è dannato per colpa sua, si è messo sotto i piedi, sputandoci sopra fino alla fine in maniera ostinata e intemerata e imperterrita, tutto l'amore di nostro Signore, tutta la sua dolcezza, la delicatezza, il sangue che ha versato, le pene che ha sofferto. E tant'è vero che Gesù, mandando che sancendo i dannati, li chiama via da me maledetti. Insomma, uno che è maledetto, di che cosa è degno? Premesse abbastanza articolate, ma credo necessarie, ecco, perché anche se chi fa commenti di un certo tipo, evidentemente non sono persone, come dire, interessate ad un confronto sereno anche con questo tipo di realtà, che ha tra l'altro tantissime spie, come tutte quante le realtà di fede. Voi sapete che le realtà di fede non possono mai essere incontrovertibili. Chi sta seguendo il ciclo di catechesi su Teneramata vedrà che in diversi punti di quell'opera Teneramata gli spiega, guarda che nostro Signore non vuole che noi arriviamo alla certezza assoluta incontrovertibile, perché perderemmo la libertà. Cioè, se io ci avessi la prova certa, assoluta, incontrovertibile, che l'inferno esiste, cioè, lo stare lontano dal peccato, a meno che io non sono completamente fuori di testa, diventerebbe una scelta obbligata, no? Non libera. Ecco perché la fede è anche un atto meritorio, perché tu puoi tranquillamente rifiutare di credere, cioè è una cosa che rientra nelle possibilità. No, non dire che c'ho davanti qui un libro, c'ho il Denzinger qua sotto, non dire che questo è un libro. Non è un atto libero, perché questo è un libro. Io lo so, ce l'ho davanti, lo vedo. Ma l'inferno, io posso dire che non esiste? In tanti lo pensano. Perché? Perché l'inferno non è un libro, è una verità di fede, ampiamente però attestata e documentata. Allora, fine di tutte quante queste chiacchiere che speriamo che non siano state troppo, noi seguiremo anzitutto la Sacra Scrittura, poi il Catechismo della Chiesa Cattolica, il nuovo Catechismo, così fughiamo accuse. Ah no, ma stava nel Catechismo di San Pio X, quelli sono retrogradi, quelli lì. No, vediamo quello che dice il nuovo. Perché anche il nuovo Catechismo, pur usando un linguaggio un po' meno cruento, come sempre accade, un po' meno diretto, un po' meno forse urtante del linguaggio tradizionale, però le verità di fede sull'inferno le dice tutte. E poi andremo invece sul maggiormente, come dire, dettagliato, che è quello che San Tommaso scrive nella Summa Teologiae, descrivendo l'inferno. E poi potremo fare un appendice, come già accennato, sulle eventuali testimonianze dei santi dopo la parte sistematica. Allora, cominciamo, come premesso, dai testi biblici, che necessariamente bisogna passare in rassegna. Sono tanti, abbiate pazienza, però bisogna tenerli presenti, perché amici cari, qua i discorsi sono abbastanza a zero, eh? Cominciamo. Matteo 5, versetto 22 e versetto 29. Ma io vi dico, dice Gesù, avete inteso che fu detto non uccidere, chi ucciderà sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto alla Sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Meglio che letteralmente è la Geenna del fuoco, proprio se uno volesse, ecco, Eisten Geennan tu più Ross. Questa espressione che Gesù usa sempre per descrivere l'inferno è assai significativa, perché la Geenna, per chi non lo sapesse, era la discarica di Gerusalemme. Come erano le nostre discariche? C'era un luogo a Gerusalemme sud-est, se non ricordo male, o sud-ovest, ma credo sud-est, credo, e dove c'era appunto questa grande discarica, dove c'era il fuoco sempre acceso. Ecco perché il fuoco della Geenna, perché i rifiuti venivano, come anche oggi, bruciati. Attenzione, rifiuti bruciati. Già usando questa espressione, il Signore sta già dicendo qualcosa di importante. Primo, che lì c'è il fuoco, non metaforico. E secondo, che lì ci vanno i rifiuti, o potremmo anche dire coloro che hanno rifiutato, coloro che hanno rifiutato fino alla fine di accogliere la salvezza, e anche coloro che sono i rifiuti, in che senso? Nel senso che avrebbero potuto avere una vita meravigliosa e hanno fatto proprio un disastro. E comincio a dire fin da adesso, questo l'abbiamo già visto, che nel giudizio particolare noi questa cosa la vedremo, eh. Cioè, cito di nuovo, l'ho fatto tantissime volte, una volta che l'ho incontrato, dice: ma sai che c'è gente che mi dice che tu mi citi in continuazione durante i tuoi interventi? Dico, eh sì, Eminenza, è vero. Sto parlando del Cardinal Petrocchi. Lui diceva così, no? Dice, guardate, quando andremo dinanzi al Signore, noi abbiamo un confronto tra la nostra vita come Dio l'ha pensata, perché Dio c'ha un progetto su di noi, ben preciso. E invece poi la nostra vita così come è realmente stata. Lui faceva, prendeva due mani, no? La sinistra e la destra. Adesso lo faccio vedere al video, chiaramente chi sente l'audio non si sentirà, però se le mani sono perfettamente sovrapponibili, quindi in modo tale che se uno le mette frontalmente se ne vede una sola perché l'altra è perfettamente sovrapposta. Strike, figlio mio, vuol dire che tu hai fatto una grande vita perché hai compiuto la volontà di Dio, hai fatto ciò per cui eri stato mandato sulla terra, hai realizzato il progetto di Dio su di te. Ah, quindi questo paradiso. Ci potrà essere qualche cosa da purificare, ma questo è paradiso. Qualche piccola cosa. Invece potrebbe darsi che i punti di contatto possano essere più o meno differenti. Faccio adesso un esempio, no? Video. Potrebbero stare così, ma potrebbero anche stare così, ma potrebbero anche stare che proprio il punto di contatto diventa quasi minimale. Quantomeno sono i punti di contatto, quanto più tu ti sei allontanato dal progetto di Dio. E quindi tanto più e tanto più severo sarà il tempo della purificazione. Ma se tu ti ritrovi così, quindi che non c'è più nessun punto di contatto, questa è dannazione, questa qui è. Ma prima di cadere nella dannazione, a giudizio particolare, tu lo vedrai come sarebbe dovuta essere la tua vita. Invito ad ascoltare una canzone drammatica dei miei amici Francesco Lorenzi and Company, il gruppo dei The Sun. Canzone che è molto istruttiva. Io ci ho fatto delle catechesi giovanili ai ragazzi. Si chiama Le opportunità che ho perso. Perché le opportunità che ho perso è la storia di un'anima dannata, che appunto prima di cadere nella dannazione, nel giudizio particolare, prende coscienza di tutte le opportunità che ha perso in maniera drammatica. Ci ho sputato addosso, ci ho fatto quello che adesso non c'è più niente da fare. Cioè, il non c'è più niente da fare, dobbiamo sempre tenerlo presente, perché è una tragedia. Allora, oltre che 22, 5, Matteo 5,22 c'è anche Matteo 5,29. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo, gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi occhi, uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. Stessa cosa viene detta della mano. È meglio che perisca uno dei tuoi membri al versetto dopo, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Ancora, abbiamo Matteo 13, 42, 50. Capitolo 13 è il capitolo delle sette parabole, no? L'ultima parabola è quella dei canestri e dei pesci. Quindi vengono buttate le reti nel mare, si prendono tanti pesci. A un certo punto, alla fine del mondo, vengono gli angeli a separare i pesci buoni da quelli cattivi. E che cosa dice il Signore? Dice, il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, comincio dal Geo da 41, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Eisten kamenon tu pyros. Ecco, letteralmente, proprio in italiano, il camino del fuoco. Vedete come ricorre sempre il fuoco? Questa è un'espressione differente, no? Quindi non il fuoco della Geenna, non la Geenna del fuoco, ma il camino del fuoco. Dove sarà pianto, clauthmos in greco, e stridore di denti, brugmos ton odonton. Avremo modo di tornare su questo perché San Tommaso spiega proprio bene che cos'è questo pianto, perché si piange e lo stridore dei denti. Ancora sempre nello stesso capitolo, Gesù dà la spiegazione. Così sarà la fine del mondo, verranno gli angeli, separeranno i cattivi dai buoni, li getteranno nella fornace ardente, stessa espressione, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete capito tutte queste cose? Gli rispondono sì. E questo era Matteo 13. Sempre ancora il Vangelo secondo Matteo. Andiamo al capitolo 18. 18 versetti 8 e 9. Di nuovo il Signore riprende quanto già detto nel discorso della montagna, applicato questa volta però al problema degli scandali. E qui, amici miei cari, continuino gli scandalizzatori che ne siamo circondati a fare scandali. Continuino. Prima di dire le cose che dice, il Signore ci ricorda. Chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me? Sapete che cos'è lo scandalo? Lo scandalo è l'ostentazione pubblica di un peccato, oppure addirittura la pretesa di chiamare quel peccato cosa normale, in modo tale che sia commesso senza nessun tipo di remora e di rimorso. C'è bisogno di fare esempi, come dire, di attualità estrema. Il Signore ha detto sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Sarebbe meglio. Guai al mondo, dice Gesù, per gli scandali. Immagine di Gesù che è sempre buonino, che è sempre guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che avvengano scandali, ma guai ancora una volta all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. E prosegue a riprendere le espressioni del capitolo 5. Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, quindi quello che fai o gli affetti che hai, taglialo e gettalo via da te, perché è meglio per te entrare nella vita monco zoppo che avere due mani o piedi ed essere gettato, vedete qui cambia ancora l'espressione, nel fuoco eterno, attenzione. Eisto pur to aionion, chi conosce il greco Aionion è proprio l'eternità. Espressione distinta. No? Vedete, ancora una volta il fuoco, il minimo comune denominatore. Stavolta eterno. Visto? La genna del fuoco, il camino del fuoco, il fuoco eterno. Se il tuo occhio ti occasiona di scandalo, cavalo e gettalo via. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco. Di nuovo, eiste gennan tu più ros. Sembra abbastanza chiaro, no? Ma evidentemente non è finito qui. Ho detto che oggi avremmo fatto una piccola overdose e la promessa deve essere necessariamente mantenuta. Andiamo sempre al Vangelo secondo Matteo. Chi è stato magari oggi a messa e ha sentito i testi della seconda messa, ha sentito questo Vangelo. L'ho già citato, è molto noto, però adesso dobbiamo fare una rassegna. Giudizio universale, si radunano intorno al Signore tutti i popoli, a destra ci stanno le pecorelle, a sinistra ci stanno i caproni. Poi dirà a quelli alla sua sinistra, via lontano da me, maledetti. Maledetti è un'espressione veramente molto, molto brutta, perché è cateramenoi, scusate, in greco, che è proprio la maledizione, participio medio di kataraomai. Dove? Nel fuoco eterno. Di nuovo, eisto pur to aionion, preparato, etoemazo, per il diavolo e per i suoi angeli. Via lontano da me, maledetti. Poreueste, apemu, oi, cateramenoi. Esto pur, esto pur, to aionion, to eto emasmenon, to diabolo, caetois, angelois, autu. Più chiaro di così? Altro testo ancora. Passiamo al Vangelo di Marco, 9, 43, 48. Di nuovo si parla dello scandalo, però, quindi è sempre lo stesso contesto, se la tua mano ti scandalizza, se il tuo piede ti scandalizza, però ricorre un'espressione ulteriore, perché nel versetto 43, se la tua mano ti scandalizza, tagliala, è meglio per te entrare nella vita monco che con due mani entrare nella Geenna, attenzione, nel fuoco inestinguibile. Qui compare un nuovo termine, asbeston in greco, inestinguibile. Alfa privativa e il verbo è sbenniumi, estinguere, proprio testualmente. Quindi inestinguibile, non soltanto eterno, inestinguibile vuol dire che non si può spegnere mai. Non c'è niente che lo possa fermare. Nel versetto 45 ritorna, è meglio che tu sia che entri nella vita zoppo piuttosto che essere gettato nella Geenna con tutti e due gli occhi, e poi, scusate, con tutti e due i piedi, e poi a proposito dell'occhio, c'è un'altra espressione. Dice, è meglio per tentare nel regno di Dio con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella Geenna. Attenzione, dove il loro verme non muore. Il loro verme, che cosa sarà questo verme? Lo vedremo se Dio vuole. Aiutati da San Tommaso. Il loro verme non muore e il fuoco ancora non si estingue. Vede il verbo u sbenniutai, come ho detto prima. Quindi c'è un verme che, i vermi sapete, no? Tarlano, corrodono, che non muore. E il fuoco non si estingue. Oh, poi abbiamo la lettera di Giuda, come accennavo, lettera al fulmicotone. In particolare, sapete che Giuda si cita non per capitolo, perché il capitolo è uno solo, ci sono due versetti, il 7 e il 13. Oh, questo argomento politicamente scorrettissimo, eh? Così Sodoma e Gomorra, le città vicine, che si sono abbandonate all'impudicizia allo stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura, stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno. Ok? Cioè, penso che bisogna forse essere più espliciti di questo. Forse bisognerà, boh, perché più espliciti di questo è un pochino difficile, no? Allora, per maggiore precisione, andiamo come sempre a prendere i testi originali, perché capiamo, no? Andiamo a vedere il testo greco. Sodoma e Gomorra che si sono abbandonate all'impudicizia. Qui l'impudicizia, di nuovo, non capisco perché. Diciamo che CEI 2008 traduce meglio con immoralità, no? Ma il termine è ekporneusa, sai. Porneuo in greco significa commettere il peccato sessuale, in particolare di fornicazione, quindi che è una congiunzione carnale fuori del matrimonio. Quindi una cosa è la fornicazione, kai apeltusai opiso sarcos Eteras. E sono andati dietro ad un'altra carne, sarebbe letteralmente. Ecco perché il vizio è contro natura. Stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno, anche qui, pyros aioniou. Quindi anche qui, non lo so se si può essere più chiaro di così, no? Alla luce di questo, di questa affermazione, come si fanno a prospettare da più parti in giro, questo argomento particolarmente doloroso, alcune prospettive ecclesiali riguardo certi tipi di peccati e di unioni? Non so se c'è bisogno che entri nello specifico, ma queste sono cose di oggi, sono cose trattate nel sinodo. Anche questo, cioè io veramente tra secolo. Quando poi San Giuda, come dire, stigmatizza i peccatori, al versetto 13 arriva ad usare un'espressione che non interessa, ma sentite in che modo lo fa. Questo è Giuda Taddeo, questo qui, eh? Guai a loro, perché si sono incamminati per la strada di Caino e per sete di lucro si sono impegolati nei traviamenti di Balaam e sono periti nella ribellione di Core. Qui, per spiegare questo versetto, stiamo qua fino a domani, perché questo è proprio intriso di storia biblica, no? C'era Caino, Balaam, l'empio mago che fu assoldato da Balak per maledire Israele, e poi la ribellione di Core, altro episodio drammatico dell'Antico Testamento. Sono la sozzura dei vostri banchetti, sedendo insieme a mensa senza ritegno, pascendo se stessi. Sentite che espressione: come nuvole senza pioggia, portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, due volte morti, sradicati, come onde selvagge del mare che schiumano le loro brutture, come astri erranti, ai quali è riservata la caligine della tenebra in eterno. Attenzione, ecco un'altra espressione. Questa è inedita. La caligine della tenebra, l'oscurità, no? Zophos, tu Scotus, quindi Eisaiona, la caligine dell'ombra, quindi dell'oscurità, in eterno. Il latino è Procella tenebrarum in eterna, in eternum servata est. C'è il 2008 riservato all'oscurità delle tenebre eterne. Vorrei evidenziare, ma sentite il linguaggio di San Giuda? San Giuda era uno dei dodici, era un vescovo. Colgo soltanto io la distanza, ma guardate che anche San Pietro usa nelle sue lettere delle espressioni molto molto forti, molto violente, rotti, figli di maledizioni, rotti a ogni vizio, figli di maledizione, dice. Guardate, faccio subito a fare una ricerca. Secondo Pietro 2,14. Secondo Pietro 2,14. E parla sempre, attenzione, di Sodoma e di Gomorra, perché dice che Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, non risparmiò il mondo antico e condannò la distruzione, sentite, Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, ponendo un esempio a quanti sarebbero vissuti empiamente. Liberò invece il giusto Lot, Lot uscì da Sodoma e da Gomorra, no? Angustiato dal comportamento immorale di quegli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali ignominie. Si tormentava notte e giorno nella sua anima giusta per tali ignominie. Allora, scusate, riprendo la lettura, però voglio anche andare a vedermi, ecco, la Esapla con i testi originali, no? Il Signore sta liberando le vite dalla prova e riservare agli impi nel giorno castigo, nel giorno del giudizio, soprattutto coloro che nelle loro impure passioni vanno dietro alla carne e disprezzano il Signore. Le impure passioni che vanno dietro alla carne e disprezzano il Signore. Attenzione che la Madonna a Fatima, anche qui si sentono i discorsi in giro, a me fanno venire certi. Mo sembra che gli unici peccati che esistono sono quelli che vanno dalla cintola in giù. No, non sono gli unici peccati che esistono, per carità. Ci sono molti che vanno dalla cintola in su. Per carità, il peccato è che quelli che vanno dalla cintola in giù, come ha detto la Madonna a Fatima, sono quelli che maggiormente popolano l'inferno. Perché la stragrande maggioranza, cioè, attenzione, i peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne. Questo l'ha detto la Madonna. E chi nega questo va contro ciò che ha detto la Madonna. Durante un esorcismo di non mi ricordo chi, un diavolo ha detto che tutti i dannati, tutti, sono marchiati di peccati impuri. Tutti. Dice, molti ne hanno anche altri, ma molti sono all'inferno solo per questi. Quindi il minimo comune denominatore dei dannati è il peccato impuro. Quindi immaginate la minimizzazione anche qui. Con la scusa che adesso, anche qua, è il solito discorso, no? La Chiesa per 2000 anni ha demonizzato il sesso. Sempre gli stessi discorsi. Adesso finalmente ci siamo liberati, anzi adesso c'è pure una visione positiva in parte del sesso, quindi sdoganiamo. All'inferno si sbudellano dalle riserve, sono tutti contenti, Perché non è che se tu lo sdogani, quello non è più un atto intrinsecamente cattivo, all'inferno non ci vai più, Ci vai lo stesso, ci vai. Anzi, ci vai due volte, perché nemmeno pensi, come disse Santa Maria Goretti ad Alessandro Serenelli, roba d'altri tempi, no? Però è canonizzata. Vorrei sentire certi dottoroni, sapientoni, dinanzi alla fede schietta di Marietta, mia grande e io indegnissimo di esserlo, conterranea. Cosa fai, Alessandro? Io questo peccato non lo commetterò mai. Se fai questo vai all'inferno. Fine. È coerente a quello che ha detto, si è fatto ammazzare piuttosto che fare questo. E non era Sodoma e Gomorra. Era fornicazione semplice. Non Sodoma e Gomorra. Temerari, arroganti, non temono di insultare gli esseri decaduti, mentre gli angeli loro superiori non prestano davanti al Signore. Arriviamo al punto, per sentire il linguaggio di San Pietro. Ma costoro come animali irragionevoli, nati per natura ad essere presi e distrutti, mentre bestemmiano quel che ignorano, saranno distrutti nella loro corruzione. Subendo il castigo come salario dell'iniquità, essi stimano felicità e il piacere di un giorno. Sentite che roba. Stimano felicità e il piacere di un giorno. I sessomani. Sono tutta sporcizia e vergogna, si dilettano dei loro inganni mentre fanno festa con voi, hanno gli occhi pieni di disonesti desideri e sono insaziabili di peccato, adescano le anime instabili, hanno il cuore rotto alla cupidigia, figli di maledizione. Tecna cataras. Ma sentite che linguaggio. Ma voi vi immaginate se qualcuno usasse oggi un linguaggio di questo genere, che cosa va a succedere? Sta di fatto però che sia il Papa, perché questo mi sembra che sia il Papa, Pietro, o no? È stato il primo Papa, o no? Che cos'è? Non è un grande pastore? No? Dov'è la carità pastorale qui? Dov'è la carità pastorale in questo discorso? Dov'è l'accoglienza? Tutte queste cose qui, dove sta? Ma questo è secondo Pietro, io il versetto incriminato, quello dove spara, è il 2,14, sta scritto. Non l'ho scritto io la seconda lettera di Pietro. E né è mio potere cancellarla o ignorarla, ma prenderne atto. Perché io sono un ministro di Dio, non sono il padrone. Io sono sottomesso alla parola di Dio, non ne sono il giudice o l'arbitro o il manipolatore o l'edulcoratore. Non lo posso fare. Non piace a qualcuno? A me dispiace, ma siamo tutti sottomessi a questa parola. Volenti o nolenti? Mi vuoi ammazzare perché sono sottomesso a questa parola? Ci sono stati martiri, i martiri ci sono da sempre stati. Ma qui non si cede di manco mezza virgola. Questo non c'entra tanto con, però più sotto, attenzione, abbandonata la retta via, eccetera, eccetera, costoro, tanto per concludere, perché che fine fanno costoro? Costoro sono come fonti senza acqua e come nuvole sospinte dal vento, ancora, un altro po' di epiteti, diciamo così. A loro è riservata ancora qui l'oscurità delle tenebre, stessa espressione tale quale di quello usato da San Giuda. Zophos tu scotus, l'oscurità delle tenebre, la caligine delle tenebre. Tenebre, no? Cogliamo anche questo termine. Fuoco, ma tenebre. Dio è luce. Si legge nelle lettere nel Vangelo di San Giovanni, e in lui non ci sono tenebre, oscurità delle tenebre. Ancora? Dice, non abbiamo ancora finito? Mi sa che abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione. Ebbene sì. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, mi devo fermare, ma ci sono ancora da andare a vedere. Casomai inizieremo la prossima volta. Mi dispiace, però ci siamo fermati. C'è ancora Matteo 8,12, Matteo 22,13, Matteo 24,51, Matteo 25,30. L'abbiamo già visto, ma poi c'è anche l'Antico Testamento, Isaia 66,24, Giuditta 16,17, Siracide 7,17, Apocalisse 20,10 e Luca 16,19,31 come i più importanti, perché è ricco, cattivo e povero Lazzaro. Quindi noi ci fermeremo, riprenderemo la prossima volta proprio con Matteo 8,12, perché la rassegna biblica deve essere finita e poi cominceremo a parlare dell'inferno, però cioè, ci siamo già resi un attimo conto, non stiamo nemmeno alla metà delle citazioni dei principali brani biblici che parlano dell'inferno. Questo ci faccia riflettere un po', che non è tanto facile mandarla nel dimenticatoio una verità di fede così biblicamente blindata. Eppure vi assicuro che i dimenticatoi per l'inferno si sprecano. E penso che qualcuno di voi ne abbia avuto qualche, ahimè, triste riscontro. La Chiesa non insegna questo, eh? La dottrina cattolica non insegna questo. Chi esce dalla sana dottrina cattolica e dall'insegnamento della Chiesa rischia. Non fatelo mai, se volete uno spassionato e accorato consiglio. Ci vediamo, se Dio vuole, alla prossima puntata, e che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga.